Capitolo 35, 19 ottobre. Una volta capito di non avere nulla da temere, e con l'avvicinarsi della data della partenza, Lady Lowborough è diventata sempre più spudorata e irriverente. Non si fa scrupolo di rivolgersi a mio marito con calorosa confidenza anche davanti a me, quando non c'è nessun altro intorno. Le piace mostrarsi interessata alla sua salute e a qualsiasi altra cosa lo riguardi per marcare con la sua dolce premura il contrasto con la mia fredda indifferenza. Lui le risponde con sorrisi, occhiatine sfacciate, sussurri, oppure con allusioni che si riferiscono alla sua bontà e al mio distacco, facendomi salire il sangue alla testa contro la mia volontà. Giacché io vorrei essere invece superiore a tutto quel che sento e vedo accadere tra di loro. Più mi faccio vedere colpita dalla loro crudeltà, e più lei si gloria della sua vittoria, e lui si vanta che io l'ami ancora profondamente, malgrado mi sforzi di fingere che non è così. Talvolta mi è passato per la mente di dimostrargli il contrario, incoraggiando l'interesse del signor Hargrave, ma sono pensieri che ricaccio quasi subito, inorridita, vergognandomene, e sento di odiarlo 10 volte di più per avermi trascinata fino a questo punto. Che Dio abbia pietà di me e dei miei cattivi pensieri. Vedo che le mie pene non solo non rendono più pura la mia anima, ma anzi trasformano in fiele la mia indole. Sicuramente è colpa mia, tanto quanto di chi mi ha fatto del male. Nessuno che sia degno di essere definito cristiano potrebbe mai provare sentimenti tanto crudeli nei loro confronti, in particolare nei confronti di Annabella. Quanto a lui, sento che se si mostrasse pentito sarei ancora disposta a perdonarlo, ma non trovo parole adatte a descrivere il disprezzo che provo per lei. Razionalmente non vorrei, ma la passione è più forte e mi costa molta fatica e molte preghiere tenerla a bada. Grazie al cielo, domani partirà. Non riuscirei a sopportare di averla qui nemmeno un giorno di più. Stamattina si è alzata prima del solito e quando sono scesa per la colazione l'ho trovata lì, da sola. «Ah, Helen, siete voi!» ha esclamato girandosi mentre entravo. Senza volerlo ho sussultato vedendola e lei ha sorriso commentando «La delusione è reciproca, credo». Io mi sono data da fare con i preparativi della colazione senza risponderle. «Oggi è l'ultimo giorno che vi importuno con la mia presenza», ha detto accomodandosi a tavola. «Ma ecco che arriva qualcuno che non ne sarà contento», ha aggiunto tra sé mentre Arthur entrava. Lui le ha dato il buongiorno con una stretta di mano, poi continuando a stringerla ha commentato penosamente: L'ultimo, ultimissimo giorno. Proprio così ha risposto lei, un po' brusca. Mi sono alzata presto proprio per goderlo appieno. Sono qui da sola da oltre mezz'ora, infatti, mentre tu, pigro che non sei altro. Veramente credevo di essere sceso prima anche io, ma ha proseguito a bassa voce, come puoi vedere, non siamo soli. Come sempre, ha protestato lei. In realtà era come se lo fossero, invece, dato che io mi ero allontanata per andare in finestra a cercare di dominare la mia rabbia. Si sono detti qualcos'altro che, grazie al cielo, non ho sentito. Poi Annabella ha avuto l'ardire di venirmi vicino e di mettermi una mano sulla spalla. Non siate invidiosa di me, Helen. Io lo amo più di quanto avreste mai potuto amarlo voi. A quel punto ho perso il controllo. Le ho afferrato la mano e me la sono strappata di dosso, guardandola con una furia incontrollabile. Lei, impreparata e spaventata dalla mia reazione, ha fatto qualche passo indietro, senza dire nulla. Mi sarei volentieri lasciata andare, dicendole qualcos'altro, ma la risatina di Arthur mi ha restituito lucidità. Ho taciuto, quindi. E mi sono voltata di scatto, pentita di avergli dato l'occasione di divertirsi tanto. Ancora rideva quando è entrato il signor Hargrave. Non so dire quanto abbia visto, dato che la porta era aperta anche prima che lui entrasse. Ha dato il buongiorno al padrone di casa e a sua cugina, rivolgendo a me uno sguardo che voleva esprimere tutta la sua solidarietà e ammirazione. Quanta lealtà sentite di dovere ancora a quell'uomo? Mi ha chiesto, vedendomi accanto e fingendo di commentare qualcosa sul tempo mentre guardavamo entrambi dalla finestra. Neppure un po', ho risposto. Poi sono tornata a tavola e ho ripreso a preparare la colazione. Lui mi ha seguita e di certo mi avrebbe parlato ancora, Ma gli altri ospiti stavano pian piano arrivando e non gli ho più badato se non per servirgli il caffè. Dopo la colazione mi sono ritirata in biblioteca per cercare di passare il minor tempo possibile in compagnia di Lady Loboraff. Con la scusa di dover cercare un libro, Hargrave mi ha seguita. Prima si è avvicinato alle mensole e ha preso un libro, poi, con calma, ma senza ombra di timidezza, è venuto da me. Ha appoggiato una mano sullo schienale della sedia e mi ha detto: "Dunque, siete libera adesso?" "Sì", gli ho detto io senza guardarlo e senza sollevare gli occhi dal libro. "Libera di fare qualsiasi cosa non sia un'offesa per il mio Dio e per la mia coscienza." È seguito un momento di silenzio. "Giusto", ha commentato poi, "a patto che la vostra coscienza non sia troppo sensibile e non immaginiate Dio troppo severo. Ditemi, credete che sarebbe un'offesa per quell'essere tanto indulgente se accettaste di rendere felice qualcuno che darebbe la vita per vedere felice voi? Innalzando il suo cuore devoto dallo strazio del purgatorio alla beatitudine dei cieli senza alcun danno per voi né per nessun altro?" Si esprimeva con voce bassa e un tono intenso e commosso. A quel punto mi sono voltata a guardarlo senza abbassare gli occhi e ho detto: "Signor Hargrave, cos'è? Volete offendermi?" Certo non si aspettava quella risposta. È rimasto in silenzio e ha raddrizzato la schiena, togliendo la mano dalla sedia. Poi mi ha risposto con una certa mestizia: "Non intendevo, no." Mi sono voltata e ho accennato brevemente con il capo alla porta. Poi sono tornata a concentrarmi sul libro. Meglio così che rispondere con tante parole e con la rabbia che sentivo dentro. È uscito immediatamente. Che meraviglia essere in grado di controllare i miei impulsi. Dovrò coltivarla questa preziosa abilità, perché penso proprio che mi sarà utile nel difficile e oscuro cammino che ho dinanzi. Più tardi, nella mattinata, sono andata con le signore al Grove in modo che Millicent salutasse sua madre e sua sorella, che sono riuscite a convincerla a fermarsi lì anche la sera, in vista della partenza prevista per domani mattina. Quindi Lady Loboraff e io abbiamo avuto l'onore di rientrare in carrozza da sole. All'inizio siamo rimaste in silenzio, io guardando fuori e lei rincantucciata in un angolo. Tuttavia non volevo certo forzarmi a restare in una posizione tanto scomoda a causa sua. Dunque, dopo un po' che ero china in avanti con il vento che mi colpiva il viso e dopo aver goduto abbastanza delle siepi scure e dell'erba umida, mi sono ritratta e anche io mi sono appoggiata all'indietro. Con la consueta insolenza, la mia compagna di viaggio ha tentato di iniziare una conversazione. Le mie risposte si limitavano a monosillabi, come sì, no e ma. Infine, quando insisteva a chiedermi che opinione avessi di una certa e irrilevante questione, le ho detto: "Perché vi ostinate a volermi parlare, Annabella Loboraff? Sapete bene quel che penso di voi." "D'accordo. Se preferite continuare a essere tanto dura, fate pure. Io non voglio portare il broncio a nessuno." Eravamo già quasi arrivate. Appena la carrozza si è fermata e si è aperto lo sportello, lei è scesa e ha raggiunto gli uomini che stavano rientrando da una passeggiata. Io, ovviamente, non l'ho seguita. Tuttavia, la sua sfacciataggine non era ancora abbastanza. Dopo cena sono andata in salotto e lei mi ha seguito. Io avevo con me i bambini, che mi davano parecchio da fare e volevo tenerli fino a che non ci avessero raggiunto gli uomini o non fosse arrivata Millicent con la madre. La piccola Helen era stanca di giocare e voleva andare a dormire. Così, mentre la tenevo sulle ginocchia e Arthur era sul divano accanto a me a giocare con i suoi morbidi capelli biondi, Annabella Loboraff si è avvicinata e si è accomodata dall'altra parte. "Domani, signora Huntington, sarete libera dalla mia presenza", ha detto. "La cosa vi farà senz'altro piacere, ma io vi ho fatto un favore, volete sapere quale?" "Sono curiosa di sapere quale favore mi avete fatto", le ho risposto ben determinata a restare calma, dato che avevo capito dal suo tono che aveva intenzione di provocarmi. "Ebbene, non avete notato che grande cambiamento ha dimostrato il signor Huntington? Che uomo moderato e sobrio è diventato? So che vi eravate dolorosamente accorta della piega che stavano prendendo ultimamente le sue trasgressioni e che avete cercato in ogni modo di indurlo ad allontanarsene invano. E alla fine sono arrivata io, in soccorso. Mi è bastato dirgli che non sopportavo di vederlo ridursi in quello stato e che se non avesse smesso subito io non avrei più. Beh, non ha importanza quel che gli ho detto, ma avrete notato com'è migliorato. Dovreste ringraziarmi. Per tutta risposta mi sono alzata e ho mandato a chiamare la bambinaia. Tuttavia, non mi interessa essere ringraziata. Mi basta che promettiate di prendervi cura di lui, ora che non ci sarò, e che non lo facciate di nuovo precipitare nelle vecchie abitudini, trascurandolo o trattandolo troppo duramente. Ero talmente agitata da sentirmi male. Quando Rachel è arrivata le ho indicato i bambini a gesti per evitare di parlare. Lei li ha presi e io li ho seguiti. Lo farete? Ha insistito Annabella. Io mi sono girata e le ho rivolto uno sguardo tale da cancellare il sorriso che aveva sul volto, o quantomeno bloccarlo per un momento. Nell'anticamera ho incrociato il signor Hargrave, che vedendomi in quelle condizioni mi ha fatta passare senza una parola. Qualche momento più tardi, dopo aver passato del tempo in biblioteca per ricompormi, stavo uscendo per andare incontro alla signora Hargrave e Millicent, che avevo sentito arrivare, e l'ho trovato ancora lì, al buio, che evidentemente mi stava aspettando. Signora Huntington, permettete una parola? Ditemi velocemente, vi prego. Stamattina vi ho offeso e non sopporto che mi dispreziate. E allora va, ed ora in poi non peccare più. No, no, ha detto lui a quel punto bloccandomi la strada. Scusate, io ho bisogno che voi mi perdoniate. Domani me ne andrò e chissà quando potrò parlare con voi nuovamente. Ho commesso un errore e fatto un torto alla mia rispettabilità e alla vostra. Vi prego, dimenticate, perdonate la mia stolta arroganza, fate come se non avessi mai detto nulla di quel che ho detto e vi prego di credermi quando vi dico che mi dispiace. Perdere la vostra stima sarebbe un castigo troppo duro che non posso sopportare. Non basta volere il perdono per ottenerlo, né posso stimare chi non lo merita. Se mi perdonerete questa offesa, farò del mio meglio per meritare la vostra stima. Lo farete? Sì. Sì? Ma l'avete detto con troppa freddezza. Datemi la mano e vi crederò. Non lo fate? Allora significa che non mi perdonate, signora Huntington. E va bene, eccola, e con essa il mio perdono, ma d'ora in poi non peccare più. Mi ha stretto la mano con intensità e senza aggiungere altro si è fatto da parte per lasciarmi passare nell'altra stanza, dove nel frattempo si erano riuniti tutti. Il signor Grimsby era seduto accanto alla porta e nel vedermi entrare, seguita da Hargrave, mi ha rivolto uno sguardo insinuante e malizioso. Io l'ho sostenuto finché non si è voltato, offeso o forse imbarazzato, se non altro confuso. Contemporaneamente, Hattersley ha tirato Hargrave per il braccio dicendogli qualcosa all'orecchio, sicuramente qualche battuta volgare, dato che lui non ha riso né ha risposto, ma si è voltato dall'altra parte, leggermente imbronciato, e ha raggiunto sua madre, che nel frattempo stava dicendo a Lord Loborough quanto era fiera di suo figlio. Ah, se Dio vuole, domani partiranno tutti. Capitolo 36, 20 dicembre 1824. Ricorre il terzo anniversario del nostro felice matrimonio. Gli ospiti sono ripartiti da 2 mesi, lasciandoci a goderci la reciproca compagnia. 9 settimane in cui ho potuto sperimentare questo nuovo tipo di vita coniugale tra due persone che abitano insieme come padrone e padrona di casa, padre e madre di un bambino gioioso e simpatico, pur avendo messo in chiaro che non condividono amore, né affetto, né simpatia. Faccio del mio meglio per mantenere la pace. Mi comporto in modo molto civile, quando mi è possibile sacrifico le mie comodità in favore delle sue, e mi confronto con lui sulle questioni domestiche, rimettendomi al suo giudizio anche quando lo ritengo meno giusto del mio. Quanto a lui, è stato sgarbato per le prime 2 settimane, nervoso e triste, io credo, per la partenza di Annabella, e di pessimo umore con me. Non ne facevo una giusta, ero crudele, severa, irragionevole, il mio viso così pallido e teso lo respingeva, la mia voce gli metteva i brividi, non sapeva come avrebbe sopportato di passare un inverno con me, l'avrei ucciso lentamente. Gli ho di nuovo proposto di separarci, ma non ne ha voluto sapere. Non voleva diventare lo zimbello del paese, né che la gente pensasse che era un tale farabutto che sua moglie non poteva vivergli accanto. Quindi doveva cercare di sopportarmi. Sono io che devo cercare di sopportare te, semmai, gli dissi, dato che seguo la gestione e l'amministrazione di questa casa tanto diligentemente senza venir pagata per questo, né ringraziata, tu sicuramente non puoi fare a meno di me. Sarò io che smetterò di occuparmi di tutto ciò quando la nostra convivenza mi sarà insopportabile. Solo minacciandolo in questo modo, pensavo, sarei riuscita a tenerlo in scacco, se possibile. Doveva essere risentito che le sue offese non mi ferissero di più, poiché ogni volta che diceva qualcosa apposta per colpirmi, poi restava a guardarmi con aria indagatrice per lagnarsi del mio cuore di pietra, della mia crudele insensibilità. Se mi fossi disperata, invece, piangendo la perdita del suo amore, allora si sarebbe mostrato più indulgente, almeno per un po', se non altro per trovare sollievo dalla solitudine e conforto per la lontananza della sua amata Annabella, finché non l'avesse incontrata di nuovo o non avesse trovato una degna sostituta. Per fortuna non sono tanto debole. Un tempo avevo provato un amore sconsiderato per lui, che gli restava fedele malgrado non lo meritasse, ma adesso non c'è più. È svanito del tutto, scomparso. E può ringraziare se stesso per questo, se stesso e la sua condotta. I primi tempi, forse per non tradire le promesse fatte alla dolce fanciulla, continuò a mostrarsi moderato e a non cercare conforto nel vino. Poi, invece, ha cominciato a prendersi qualche deroga alla sua virtù, concedendosi di tanto in tanto di eccedere un po', cosa che ancora fa. A dire il vero, alle volte non si tratta solo di un po'. In queste occasioni, quando è esaltato da questi eccessi, va fuori di sé e si comporta nel peggiore dei modi. Da parte mia, in questi casi, non cerco di reprimere il mio disprezzo e la mia riprovazione. Nella depressione del dopo sbornia si lagna delle sue pene, delle sue colpe, dicendo che è solo colpa mia. Sa bene che questi eccessi gli fanno più male che bene, ma dice che sono io a condurlo a tanto, per via del mio atteggiamento poco femminile, che a causa mia è destinato alla rovina. Sono quindi chiamata a difendermi, spesso recriminando dolorosamente sul passato. Non è forse vero che ho tanto e lungamente faticato proprio per riuscire a liberarlo da questo vizio? E non lo farei ancora se potessi. Eppure, come potrei coprirlo ancora di attenzioni e carezze quando so che mi disdegna? È forse colpa mia se non ho più ascendente su di lui, se lui ha perso il diritto alle mie premure. Dovrei impegnarmi per una riconciliazione quando in realtà lo odio e so che lui mi detesta? Quando ancora continua a scrivere a Lady Annabella Loboraff, e io lo so? No. Mai e poi mai, che si uccida col vino, se crede, non sarà per colpa mia. Tuttavia, non manco di fare la mia parte per aiutarlo a smettere di bere quando gli dico che il vino gli appanna lo sguardo, gli arrossa il viso e lo gonfia, che lo intontisce nell'aspetto e nell'intelligenza, che se Annabella lo vedesse in quelle condizioni si disamorerebbe di certo e che sicuramente lo lascerà se continua così. Con tali rimproveri mi guadagno puntualmente insulti. E sento anche di meritarli in fondo, dato che odio arrivare a usare certe argomentazioni, ma del resto sono le uniche in grado di penetrare il suo cuore intorpidito e convincerlo a smettere. Ora sono temporaneamente sollevata dalla sua compagnia. È andato a caccia con Hargrave piuttosto lontano da qui. E non credo che tornerà prima di domani sera. Com'era diversa prima per me la lontananza. Il signor Hargrave è rimasto al Grove. Si vedono spesso con Arthur per i loro passatempi di campagna. Lui viene di frequente qui e Arthur va a trovarlo assiduamente. Sono sicura che nessuno dei due sia particolarmente affezionato all'altro, ma che si vedano per ingannare la solitudine. E io ne sono contenta, dato che mi evitano l'imbarazzo di passare il tempo con Arthur e distolgono lui dall'abbrutirsi con le solite trasgressioni. L'unica cosa che mi dispiace riguardo alla presenza del signor Hargrave da queste parti È che il timore di incontrarlo non mi consente di vedere sua sorella spesso come vorrei. È stato talmente impeccabile negli ultimi tempi che ho quasi dimenticato il passato. Immagino che sia questo che intendeva quando diceva di voler conquistare la mia stima. Di questo passo potrebbe anche riuscirci, salvo perderla nuovamente appena mostrerà di volere qualcosa di più. 10 febbraio. Quanta pena e quanto rimpianto quando i nostri migliori sentimenti e le nostre buone intenzioni vengono bistrattati. Stavo iniziando ad arrendermi un po' davanti al mio miserabile compagno, a provare compassione per la sua vita tanto malandata e infelice, privata com'era di qualsiasi consolazione intellettuale o di una coscienza pulita di fronte a Dio. Pensavo che fosse opportuno metter via il mio orgoglio e cercare di sforzarmi di farlo sentire più a suo agio in casa, per ricondurlo sulla retta via, certo non professando un amore o dei rimorsi che non provo, ma moderando il mio abituale distacco e portando la mia fredda educazione verso una qualche forma di gentilezza. Non solo lo pensavo, ma stavo cominciando a farlo. Con quale risultato? Non ho ottenuto in cambio neppure un miraggio di gentilezza, neanche l'ombra del pentimento, ma un impietoso malumore, invece. Una tirannia che si faceva più esigente quanto più mi mostravo disponibile e un malcelato autocompiacimento quando notava dolcezza da parte mia, che aveva l'effetto di ricongelarmi all'istante. Questa mattina mi ha inferto l'ultimo colpo e il processo di pietrificazione a questo punto è di certo completo. Nulla, mai più, riuscirà a sciogliermi. Tra le varie lettere che ha ricevuto ne ha letta una con particolare compiacimento, poi me l'ha tirata attraverso il tavolo dicendo: «Leggi qua, e che ti sia di lezione». La grafia era quella di Lady Loborough, sciolta e irruente. La prima pagina, a colpo d'occhio, sembrava solo piena di disordinate dichiarazioni d'amore e di fervente desiderio di rivedersi presto, più una serie di invettive contro la provvidenza che aveva voluto separare il loro destino tenendoli legati a persone che non avrebbero mai potuto amare. Vedendomi arrossire, ha riso sommessamente. Ho ripiegato la lettera e gliel'ho restituita, alzandomi con queste parole: «Grazie, in effetti mi sarà di lezione». Il piccolo Arthur stava giocando tra le gambe del padre con il suo anello di rubino. Ho avuto l'impulso di allontanarlo dalla sua influenza negativa. L'ho preso in braccio e sono uscita. Il piccolo non è stato contento di questa separazione forzata e ha iniziato a piangere. L'ennesimo colpo di pugnale sul mio cuore già distrutto. Sono andata in biblioteca. Ho chiuso la porta e mi sono seduta a terra con lui piangendo e abbracciandolo con amore. Il mio comportamento lo ha turbato invece di consolarlo e ha continuato a gridare chiamando il padre. A quel punto l'ho liberato dall'abbraccio, piangendo lacrime così amare che mi offuscavano la vista. Sentendolo gridare così, il padre ci ha raggiunti. Mi sono affrettata a girarmi, perché non mi vedesse in quelle condizioni, ricavando un'idea sbagliata dei miei sentimenti. Lui mi ha insultata. Si è preso il bambino, che ormai si era tranquillizzato, ed è uscito dalla stanza. È terribile, terribile che il mio bambino sia affezionato più a lui che a me, e che dopo tutto l'impegno che metto nella sua educazione, nella sua felicità, che sono le cose per le quali vivo, io debba vedere tutto rovinato a causa di qualcuno il cui amore egoista è più dannoso di qualsiasi indifferenza o dispotismo. Quando succede che, per il suo bene, io gli neghi qualcosa, lui corre dal padre, il quale, nonostante l'indolenza che lo caratterizza, è disposto a sforzarsi pur di accontentarlo. Quando provo a contenere la sua volontà, o lo guardo severa dopo aver assistito a qualche capriccio, lui sa che l'altro genitore ne riderà e sarà suo alleato contro di me. Dunque mi trovo a dover combattere quel che c'è dello spirito paterno nel figlio, scovare e sradicare le radici delle sue peggiori attitudini, mentre lui vanifica i miei sforzi per il bene del bambino, annulla l'influenza che ho su di lui, e mi sottrae persino il suo affetto. Era questa l'unica speranza che nutrivo ormai per la mia vita e lui sembra felice di togliermela. Eppure, non bisogna lamentarsi.